America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Do you think that in case the referendum will not go well for the Prime Minister, he should stay on and continue in his reforms? I won't weigh in on the referendum, but the reforms Matteo's initiating, certainly on the economic side, are the right ones. I think you should hang around for a while no matter what. Beh, vi ho fatto riascoltare l'audio di una domanda che feci al presidente Barack Obama e all'allora presidente del Consiglio Matteo Renzi durante la conferenza stampa congiunta durante una visita del nostro ex presidente del Consiglio a Washington. Ebbene, sono passati 6 mesi esatti da quella data, da quella visita. Fu una visita di Stato, ci fu poi una grande cena nei prati della Casa Bianca. Ecco, questa settimana invece a Washington arriva il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e si incontrerà con Donald Trump. Dunque si volta pagina e i due ripartiranno da dove i loro predecessori hanno lasciato. Sentiamo Sean Spicer. I'm glad to announce the president will host the prime minister of Italy for an official working visit to the White House next Thursday. The leaders will discuss the upcoming G7 and a range of issues of mutual concern. Ecco, Spicer dice che la Casa Bianca conferma che il presidente del Consiglio Gentiloni sarà a Washington. Il premier in mattinata interverrà al Center for Strategic and International Studies. Alle 15 incontrerà Donald Trump alla Casa Bianca. Ci sarà subito a seguire una conferenza stampa congiunta. Poi Gentiloni andrà in Canada, dove si incontrerà con Justin Trudeau. Gentiloni sta preparando un pochino il terreno per il G7 che si terrà a Taormina. I temi centrali di questo incontro a Washington sono due: da una parte il rapporto bilaterale, che resta tutto sommato in buone condizioni grazie anche al lavoro del nostro ambasciatore Armando Varricchio a Washington, che è riuscito a compiere uno straordinario passaggio in termini di relazioni con un'amministrazione nuova che arriva, con un presidente nuovo, e dunque a preparare il terreno proprio per questa visita. Per questo dedico la copertina della settimana a Washington, all'Italia Washington. Il secondo tema centrale, ovviamente, è la preparazione del G7 di Taormina. Si cercherà di discutere un po' di tutto a questo G7, ma uno dei temi centrali sarà quello caro a Donald Trump, e cioè il contenimento dell'immigrazione, nel nostro caso di quella che in arrivo dall'Africa, dalle coste africane, e soprattutto la lotta al terrorismo. Dal punto di vista bilaterale, vi dicevo, c'è stata una settimana piuttosto buona per il cambiamento di Trump. Trump è cambiato, Trump adesso è favorevole alla NATO, vorrebbe imporre delle sanzioni, però le vede con minore aggressività. Per esempio con la Cina è pronto a fare un compromesso: se la Cina aiuterà sulla Corea del Nord ci saranno meno sanzioni commerciali. Insomma, il presidente ha cambiato pagina, non è più schierato con Steve Bannon, il fanatico che voleva fargli distruggere tutto, che voleva fargli fare solo provocazioni. Si è affidato ai manager, ai professionisti della politica estera, ai generali di cui vi ho parlato più volte, e dunque questo dà un quadro di fondo secondo me molto positivo per l'imminente visita di Gentiloni. Ecco, questa settimana ci saranno anche gli incontri del Fondo Monetario e Banca Mondiale. Già da domani a Washington ci saranno le riunioni preliminari con la diffusione del World Economic Outlook. Si parlerà di economia mondiale e si confermerà, questo dobbiamo augurarci che resti, un tasso di crescita dell'1% per la nostra economia. Growth is picking up, and where we have the prospect of more jobs, better incomes, and where we should not spoil it, we should not waste it. Ecco, Christine Lagarde, direttore del Fondo Monetario Internazionale, vi ho fatto ascoltare una sua dichiarazione in cui dice che dopo 6 anni di crescita deludente l'economia mondiale, perché abbiamo parlato di quella italiana ma quello che conta è anche l'economia mondiale, sta accelerando con una ripresa ciclica che promette più occupazione, salari più alti e una maggiore prosperità futura. Dunque un quadro tutto sommato di ottimismo, con un'unica riserva. Beh, secondo la Lagarde questa ripresa è generalizzata tra i paesi europei, anche se alcuni stanno ancora facendo i conti con un debito alto e una debolezza in determinate banche. Questo è un avvertimento sulle banche. L'Italia sta cercando di uscire dalle secche attraverso una serie di manovre per ricapitalizzare alcune banche in difficoltà. Infine preoccupazioni per quello che potrebbe succedere sul fronte del protezionismo, e la reazione della Lagarde è chiarissima: qualunque forma di protezionismo certo non aiuta l'economia. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su Mario24.com. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, dalla Casa Bianca Trump e Gentiloni riaffermeranno l'alleanza, l'amicizia tra Washington e Roma. E dunque, come canzone del giorno, vi propongo The White Strings, We're Going to Be Friends. Saremo amici. Fall is here, hear the yell, back to school, ring the bell, brand new shoes, walking blues, climb the fence, books and pens, I can tell that we are gonna be friends, I can tell that we are gonna be friends. upon the ground and look at all the bugs we found. Safely walk to school without a sound. Safely walk to school without a sound. Here we are, no one else. We walk to school all by ourselves. There's dirt on our uniforms from chasing all the ants and worms. We clean up and now it's time to learn. We clean up and now it's time to learn. Numbers, letters, learn to spell. Nouns and books and show and tell. Playtime, we will throw the ball. Back to class, through the hall. Teacher marks our height against the wall. Teacher marks our height against the wall. We don't notice any time pass. We don't notice anything. Side by side in every class. Teacher thinks that I sound funny, but she likes the way you sing. Tonight I'll dream while I'm in bed, when silly thoughts go through my head about the bugs and alphabet. When I wake tomorrow, I'll bet that you and I will walk together again. I can tell that we are gonna be friends. Da New York è tutto. Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.